manca la rabbia, il cane di Tolstoi. Commenta la Bibbia, Pamela di Via Uruguay. Mi mandi un messaggio per dirmi che mi aspetti e che ci stai. Arcangelo azzurro, elettrico di Dateo, con occhi di giada, di sacro scarabeo. Abbronzati a Nolo, che cazzo te ne frega del Circeo. Milano è la metafora dell'amore, di tutto ciò che cambia, della vita che va da sola in una grande geografia del dolore sta. Io sono un disperato, massacrato il mio cuore, spacciato dalla nascita, ma questa città ti uccide, ti resuscita, si nasce, si muore. Qui resta bellissimo perdersi, verificare l'effetto che fa. Porta a Venezia o all'isola dentro un bar, ti voglio baciare, Gesù Cristo superstar. Un tossico dorme in piazza Cincinnato e lì si fa. Da via San Gregorio a Brenta da Gorlaro, tra l'ultima birra e il tempo che più non ho, c'è in mezzo un respiro, la pelle dei ragazzi, il rock and roll.